aspettiamo a parlare del nostro territorio, vediamo, facciamo un secondo anche lui un po', appunto, cos'è per te Val Susa, come l'hai attraversata e come ti ha condizionato poi nel percorso politico e poi nel territorio, nel senso da Cassinetta, ma anche adesso che condividiamo l'esperienza di Cambiamo Abbiate Grasso. Comunque penso che in qualche modo c'è una, come dire, un'influenza, tu sei stato su spesso come amministratore, nel senso che vabbè, cioè sia Giove che Gianluca e anche noi come Folletto, insomma, abbiamo una nostra identità, una storia, un approccio rispetto a quelle esperienze, sicuramente diversa da un sindaco di Cassinetta o che andava in Val Sud, insomma, no? Ma allora, parlare di Val di Susa, per me, uso anche il singolare, ma dovrei usare il plurale, perché comunque io, avendo fatto il sindaco per 10 anni a Cassinetta di Lugagnano, ho condiviso diverse battaglie, non soltanto con gli assessori, i consiglieri di Cassinetta di Lugagnano, ma anche poi con persone di Abbiate Grasso e di tutto il territorio del Parco del Ticino, che comunque qua c'è anche Givo, che comunque a vario titolo hanno incrociato la Val di Susa in maniera talvolta diretta e talvolta indiretta attraverso la partecipazione ad altri movimenti locali. E noi qua, fin dall'inizio, abbiamo dato vita insieme anche con il Folletto, fin da quando nel 2002 è stato calato su questo territorio questo progetto infrastrutturale, abbiamo cercato di fare quella che si chiama, ormai oggi va di moda dire così, la rete, no? Poi una volta eletti a Cassinetta, io subito mi sono trovato a confrontarmi con la Val di Susa in maniera quasi fortuita la prima volta. Il primo incontro con la Val di Susa succede in pullman. Perché? Perché appunto per andare ad un'audizione a Bruxelles, dove appunto avevamo ottenuto di essere ricevuti dalla Commissione Europea petizioni per contrastare l'autostrada che andava a Malpensa, siccome io ho paura di prendere l'aereo, mi sono agganciato ad una carovana di comitati che partiva da tutta Italia e andava verso Bruxelles, e siamo passati a prendere anche i compagni della Val di Susa. E sono saliti su questo autobus con un borsone grosso così e un contatore Geiger, perché dentro il borsone c'era una pietra, e loro, poi abbiamo fatto insieme l'audizione, siamo entrati prima noi poi loro, si sono presentati di fronte alla Commissione europea con la pietra e il contatore Geiger per dimostrare che lì dentro ci stanno le radiazioni, no? Questo è il primo incontro che è avvenuto come sindaco di Cassinetta con il movimento NOTAV, perché poi dopo si sono incrociate altre relazioni. Lì si è interrotto per un breve periodo di tempo ed è ripreso 3-4 anni dopo, quando ci chiamano dal Val Susa Film Festival, Maurizio Piccioni, se non mi ricordo male, Chiara Sasso, per dirci che volevano incrociare l'esperienza di Cassinetta di Lugagnano, perché noi, oltre alla battaglia contro la grande autostrada che vorrebbero fare verso Malpensa, avevamo avviato un ragionamento diverso rispetto alla gestione del territorio. E quindi, siccome la Val di Susa non è soltanto un luogo dove si praticano le politiche del no, ma è diventato un luogo dove si stanno praticando esperienze e si sta cercando anche di importare in valle quelle che sono le buone pratiche o le buone esperienze che si svolgono un po' in tutta Italia. Quindi poi ognuno ha incrociato per diversi aspetti, perché la Terra Trema ha incrociato gli agricoltori, noi abbiamo incrociato amministratori che volevano capire che cosa succedeva a Cassinetta di Lugagnano rispetto al piano regolatore, perché in valle, oltre al TAV, comunque erano già proiettati rispetto a quello che poi una grande infrastruttura si porta, ovvero consumo di suolo, consumo di territorio, nuove infrastrutture di raccordo, nuove compranari. Poi già comunque la Val di Susa è molto, perché giustamente diceva prima che la Val di Susa non è il giardino, no? Non c'è nessuno che sta difendendo il suo giardino incantato. Ha delle bellezze che invito tutti ad andare a visitare, però non è il luogo, cioè la Val di Susa è già martoriata da un'autostrada, da due provinciali, ci so, è fortissima, soprattutto la bassa Val di Susa è molto industrializzata, quindi c'è, non è un luogo, non è una riserva dell'UNESCO come invece siamo qua nel Parco del Ticino, ecco. E quindi la tentazione di che tutta la politica in maniera mainstream ha convogliato sulla Val di Susa di disegnare quelli del no, i trinari ciuti, quelli che si barricano e basta, ha portato comunque un pezzo di movimento, che poi tutto il movimento, a dimostrare che non è così, perché e che non è una sola politica di resistenza rispetto ad una grande opera mentre si va avanti su tutti gli altri canali del modello di sviluppo. Cioè il movimento NOTAV, che è maturato tantissimo nel corso di questi 20 anni, oggi è preso a modello, perché non dice soltanto non vogliamo un treno, cioè stop the train, no, dice vogliamo un altro modello, vogliamo un altro sistema, vogliamo cambiare anche il corso della storia del nostro paese. E da lì poi sono nate tutta una serie di relazioni che, per un caso probabilmente legato ad una mail che è girata, è arrivata una, rispetto all'esperienza di Cassinetta di Lugagnano, ci chiamano e ci dicono vogliamo darvi il riconoscimento del Val Susa Film Festival, il premio Bruno Carli del Partigiano, che appunto istituito il premio, e quindi noi siamo partiti da Cassinetta un giorno che pioveva, me lo ricorderò sempre, siamo arrivati al presidio di Borgone e lì abbiamo condiviso con i compagni, gli amici del movimento NOTAV un bellissimo pranzo e abbiamo in qualche modo continuato un percorso che io davvero auguro a tutti i sindaci, a tutti coloro i quali fanno politica nel nostro paese, di incrociare in maniera così non su un sito internet, ma proprio di persona. E da lì è nato ed è cresciuto sempre di più un legame che ci porta ad essere, credo che io e Paolo e i ragazzi del Folletto siamo gli unici abetensi che sono andati almeno 4-5 volte in Val di Susa, perché un po' da tutta Italia ci si ritrova in valle, però ci sono delle delegazioni da ogni piccolo fazzoletto, grande città del nostro paese, che arrivano in valle e si ritrovano, e quindi c'è la sensazione, appunto, si torna arricchiti, perché c'è la sensazione di essere comunque parte di una comunità che, seppur dispersa, alla fine si ritrova attorno a dei temi che sono oggi fondamentali proprio per il nostro paese. L'ultimo incontro che abbiamo fatto la mattina dell'ultima manifestazione nel comune di Bussoleno, c'erano giustamente voi non avete affrontato il tema appunto della sostenibilità dell'opera, i temi economico-finanziarie, però davvero se la televisione, quella che tutti dicono essere il luogo dove si formano le coscienze, dove i cittadini, avesse l'umiltà di venire ad ascoltare e di mandare in prima serata quello che viene detto nei convegni che si fanno in valle e che sono tutti certificati da studi dell'università, dei documenti ufficiali della comunità europea, dell'andamento del, cioè, rimarrebbe a bocca aperta e direbbe davvero qua arrestate tutti gli amministratori, tutti quelli che vogliono fare questa grande opera, perché è folle ed è contraria alla legge. Perché il TAV, permettetemi di fare questi passaggi, ma il TAV, perché visto che siamo da Bietegrassi ci dicono che noi siamo i NOTAV e quindi siamo noi ad essere fuori legge, cioè il TAV è un'opera che è fuori legge, per un motivo semplicissimo, perché non è sostenuto da un'adeguata analisi costi-benefici, che è il primo elemento del manuale del buon amministratore e programmatore di opere pubbliche. Cioè se un'opera viene realizzata deve avere un rapporto positivo costi-benefici. Cioè io la faccio, investo del denaro pubblico, se ho un ritorno in termini di medio-lungo periodo almeno pari a quello che è l'investimento. Il TAV non è questo, il TAV non è nulla di tutto questo. Il TAV, giustamente diceva lui benissimo prima, perché quando la Marcegaglia dice andate a liberare la libera Repubblica della Maddalena, non dice ho bisogno del TAV per portare i miei prodotti a 300 all'ora dall'altra parte delle Alpi, dice si sta mettendo in discussione un modello e si stanno rimettendo al centro della politica le vere pratiche democratiche. Questo dice la Marcegaglia, cioè dice attenzione, perché qua c'è qualcuno che non vuole consentire a noi di continuare ad essere dei sovversivi, perché i veri sovversivi poi in realtà io penso che non siano quelli che vogliono essere liberi e democratici, o vivere in una repubblica. I veri sovversivi oggi sono quelli che vogliono in qualche modo forzare la natura, le leggi anche dell'economia, per adeguarli al loro ritorno di piccola bottega, di appalti, mezzi appalti, oppure grandi interessi che possono essere mossi da queste grandi opere. Oggi ormai non sono proprio sostenibili, cioè, oggi la crisi ha fermato alcune grandi infrastrutture, no? La nostra probabilmente è fermata, è stata bloccata non tanto dalla nostra opposizione, che comunque è servita, perché i nostri 2-3 ricorsi al TAR, la nostra mobilitazione, il cambio di qualche amministrazione, ha dato, poi devo dire una cosa sempre su un'amministrazione della Val di Susa, ricordami se non lo dico, legata al No Expo, perché poi si incrociano tutti i vari temi, ma il dire, il bloccare una grande opera grazie alla mobilitazione, oggi, se per noi è stato comunque il risultato di un effetto della crisi, viene in qualche modo visto come una sconfitta di tipo politico. Se domani dovessero fare un consiglio dei ministri e dire guardate, il TAV non lo si fa più, una classe politica in blocco si dovrebbe dimettere, perché ha dimostrato di non essere in grado di realizzare quello che secondo il loro modello, secondo il loro totem della crescita, dello sviluppo, della competitività, della velocità, dell'andare sempre più rapidi, dovrebbero in qualche modo dichiarare la propria sconfitta politica, culturale in questo paese, e questo non lo faranno mai. È una questione proprio di tenuta della posizione, no? Metto ancora in bocca a loro delle parole che spesso usiamo noi, cioè loro devono tenere la posizione, devono in qualche modo dimostrare al mondo dell'informazione italiana e agli italiani in generale che il movimento No TAV sono i soliti quattro rompicoglioni, e che per riprendere la giusta via delle sorti progressive del nostro paese bisogna fare il TAV, bisogna fare l'Expo, bisogna fare... Però pian pianino, e su questo loro non potranno farci nulla, stanno crollando. Cioè, oggi, di oggi ieri, la notizia, no, di Expo, si fa, non si fa, i soldi li tagliano. Si sta in qualche modo sgretolando un sistema dal punto di vista proprio anche dell'immaginario dei cittadini, che non molti se la bevono ancora, perché molti se la bevono, però qualcuno incomincia a farsi qualche domandina in più, qualcuno incomincia a dirsi ma allora forse c'hanno ragione i comitati, dicono, perché io vado a convegno, magari sono iscritto al Partito Democratico, ma come, sono iscritto al PD, vado alla Festa dell'Unità, incontro gli agricoltori, incontro Carlin Petrini, no? Che mi dice che è prodotto chilometro zero, filiera corta, bisogna andare piano, l'agricoltura, tutto quanto. Paolo sa quanto siamo critici su Carlin Petrini, quindi l'esempio non è fatto a caso. E poi io però vengo da voi, dal PD, mi dite che dobbiamo fare queste cose qua, e poi dopo dobbiamo fare il TAV, cioè c'è qualcosa che non va, no? Perché comunque incomincia a passare nell'opinione pubblica il messaggio che il territorio è prezioso. E qui sta la grande vittoria politica del movimento No TAV e di tutti i movimenti che ci sono oggi in Italia. Cioè che attorno alla tutela della terra, del bene comune, di quello che non è riproducibile, perché... Noi lo diciamo da anni. Non si produce più la terra. La terra, no? Non se ne fa più. Cioè è l'unica cosa che lo diceva. Lombardia. Questo lo diceva quello che si è suicidato, Raul Gardini. Raul Gardini, o comunque. Non credo sia suo, però. No, forse no, non è suo, hai ragione. Però che l'unica cosa è che bisogna acquistare la terra, perché è l'unica cosa che non se ne fa più. Cioè, quella è non è come l'acqua che si può rinnovare. La terra, una volta cementificata, non si può recuperare. No? Puoi fare il basetto sul. Però quando hai fatto il piano Sogef, quella terra lì è persa per sempre. La recuperi fra qualche millennio, forse. La gente incomincia a capirla questa cosa, soprattutto in momenti di crisi come questa, dove la gente potrebbe avere, incomincia a dire, ma forse è meglio che mi compro un pezzo di terra, forse i soldi non sono il soldo, cioè la rapina che hanno fatto l'altro giorno sulla Milano Como, cioè, hanno lasciato applauso, hanno lasciato, hanno detto che... No, hanno lasciato, no, però no, voglio dirlo perché è emblematico questo, perché dà il senso anche di come quello che conta è l'economia reale. Cioè, hanno lasciato i contanti e si sono presi soltanto loro, no? E perché un'altra cosa che voglio dare come esempio, c'è un mio caro amico di Roma che ha un pezzo di terra nel Circeo ed è un ingegnere, lui ha incominciato a coltivare lo zafferano in questo pezzo di terra, zafferano, no? Sempre ora si tratta, zafferano, così, e è andato un contadino lì della zona, ha detto, senti, mi ridai a me i bulbi quest'anno, infatti gli do un euro, lui ha detto, ma tienitelo tu l'euro e mi tengo il bulbo di zafferano. E quindi se il valore delle cose vere incomincia ad essere percepito dai cittadini sempre di più come quello che è il prodotto della terra o è qualcosa di che è ancorato all'economia reale, allora davvero fa click la politica e la democrazia. Certo ce la metteranno tutta, no? Lo vediamo anche in questi giorni, a vendere un modello diverso anche dal punto di vista comunicativo rispetto a questo. Il modello diverso non può che essere quello del cotto ormai, che sta dimostrando tutta la propria inadeguatezza per garantire a tutti adeguati livelli di vita e di sopravvivenza. Più sopravvivenza che di vita. Più che cioè, l'Italia oggi ormai è diventato un paese che tira la propria economia con cartelli compro oro, pure le protesi dentarie, questo lo scrivo ogni tanto, sigarette elettroniche e slot machine, gioco d'azzardo, cioè quindi tutte cose ormai che hanno, siamo alla fine, cioè solo la speranza è quello che ti puoi tenere in bocca anche a livello di capsule odontoiali. Quindi siamo davvero, ed è paradigmatico di come questo modello sia ormai crollato. Ora, cosa può fare un comune? Io quando, ed è la cosa che probabilmente mi rimprovera di più, Valentina di Villar Forchiardo, che abbiamo incontrato 3-4 anni fa a Leoncavallo quando parlammo di Expo, e mentre ragionavamo su, lei mi fece una domanda, cosa posso fare io per il mio territorio? Sono in Val di Susa, e mi disse, candidati alle elezioni, cerca di prendere il tuo pezzo di terra dove abiti, e credo che Valentina poi sia diventata vice sindaco e sia stata una delle, quando ci fu poi il cambio della comunità montana che riuscirono a fare l'accordo con le liste in ottava, il movimento LPD, furono determinanti quei 2-3 consiglieri nella comunità montana che poi comunque hanno rappresentato un piccolo granello nell'inceppamento della macchina amministrativa legale, no? E quindi oggi comunque a distanza di 10 anni, se prima vedevo un impegno delle istituzioni come opposizione alle grandi opere semplicemente limitato alla difesa del tuo territorio, poteva essere era una delle modalità con cui anche altri sindaci del nostro territorio si sono approcciati alla difesa del Parco del Ticino. Oggi invece credo che il fatto di porsi in maniera complessiva rispetto ad un modello generale può creare quell'humus favorevole alla crescita di un altro sentimento generale che possa davvero rappresentare una nuova narrazione politica generale, non semplicemente del comitato No TAV, del comitato No Ponte o del comitato che si oppone alla linea Milano-Malpensa. Da questa condivisione di esperienze penso che davvero nasca un altro modo di fare politica, un altro modo completamente diverso di fare politica, e se i cittadini diversamente articolati tra il Leoncavallo, il Folletto, la lista Camminiamo in Bietegrasso, che si è formata in maniera così molto spontanea ma con una consapevolezza molto più elevata rispetto ad altri, perché nel nostro territorio eravamo molto consapevoli di quello che stava succedendo e sapevamo che dovevamo fare dei pezzi di ragionamento molto più complessi rispetto a quelli che si collocavano in base al proprio partito di appartenenza. E quindi io mi fermerei qui ringraziando la Val di Susa per l'arricchimento che ha portato in questo territorio, non soltanto per me ma per pezzi interi di generazioni che oggi credo dovranno guardare a questo tempo con occhi diversi, neanche tra molto tempo, credo tra breve, come momento in cui nasce qualcosa di nuovo.